La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, il nostro appuntamento settimanale con il cinema qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, un saluto da tutta la nostra redazione. Un'ora per raccontarvi tutto il cinema che c'è in una settimana veramente molto densa, perché è stata la settimana della Festa del Cinema e è stato un successo clamoroso, cioè dal 12 al 15 di ottobre i cinema italiani sono stati letteralmente presi d'assalto, con il prezzo chiaramente a 3 euro che invitava molto tutti quanti ad andarci, ma anche con tanti volti giovani, e questo mi ha fatto molto piacere vedere tanti ragazzi buttarsi nel cinema, e chissà che adesso qualche cosa non sia rimasto impigliato nelle reti lanciate dalla Festa del Cinema e che questo possa diventare anche per tanti giovani. E pensate, non sono pochi quelli che magari non vanno mai al cinema, non sono mai andati al cinema, non hanno un cinema magari nel raggio di 50 km da casa. È uno dei temi di cui ci occuperemo anche nelle prossime settimane, perché è stato uno dei temi portanti delle giornate del cinema d'essai a Mantova. Ma chiaramente la vita continua e i prezzi tornano quelli assolutamente popolari comunque e in ogni caso del cinema. In questo fine settimana denso di nuove uscite, denso di nuovi film, con un film italiano da cui ci si aspetta molto, Suburra, è già primo in classifica, il primo giorno di programmazione è subito balzato in testa superando Hotel Transilvania 2, Maze Runner, altra nuova uscita di cui parleremo fra poco, e Inside Out. La classifica dello scorso weekend aveva visto il sorpasso in testa proprio di Hotel Transilvania 2, che aveva portato a casa quasi 3 milioni e 200 mila euro nel primo weekend di programmazione, superando Inside Out della Pixar, che veleggia ormai verso i 22 milioni di incasso complessivo. Vedremo quali saranno le pellicole di questa settimana che riusciranno a incontrare il favore del grande pubblico. Cominciamo con un film che si intitola Woman in Gold, in cui si respira un'atmosfera di grande arte e anche di grande recitazione al femminile. Eccola qui, mia zia Adele, ritratta da Gustav Klimt. Un quadro magnifico. Fu staccato dalle pareti di casa nostra dai nazisti. E da allora è rimasto esposto nella galleria del Belvedere a Vienna. E vorrebbe le fosse restituito. Non sarebbe bello? E si farebbe giustizia. Il quadro in questione è uno dei più noti di Gustav Klimt, una donna dai capelli scuri con uno splendido gioiello al collo e circondata d'oro. La Mona Lisa d'Austria viene definita nel film che porta il suo nome, Woman in Gold. Il vero nome di quest'opera è però Ritratto di Adele Bloch-Bauer, e alla famiglia di questa signora della Vienna di inizio secolo apparteneva prima dell'invasione nazista dell'Austria. Quel quadro è troppo importante per il governo austriaco. Hanno distrutto la mia famiglia, hanno ucciso i miei amici e mi hanno costretta ad abbandonare i luoghi e le persone che amavo. Non gli consentirò di umiliarmi di nuovo. Siamo qui per portare in tribunale il governo austriaco. Buona giornata. Cosa succede si capisce da questa clip. Maria Altman, superstite dell'Olocausto e nipote di Adele, intraprende nel 1998 una battaglia legale per riavere questo e altri quadri appartenuti alla sua famiglia. L'aiuterà un giovane avvocato, anche lui di origine austriache, Randy Schoenberg, nipote del compositore della dodecafonia. La gente vede un capolavoro di uno dei più grandi artisti austriaci, ma io vedo il ritratto di mia zia, una donna che mi parlava della bellezza e della vita. È arrivato il momento di restituirmi ciò che è mio di diritto. È vera la storia di questa battaglia legale, di cui si trovano tracce e testimonianze in rete, compresa la vera Maria, morta a 94 anni nel 2011, che testimonia. La parte migliore del film sta nell'eccezionalità della vicenda. Non pensiate infatti che il quadro sia ancora sulle rive del Danubio, e sta anche nell'interpretazione di Dame Helen Mirren, folle e determinata nei panni della signora Altman, superiore di diverse spanne al resto del cast, Ryan Reynolds, Daniel Brühl, Katie Holmes. Meno convincente invece il doppio piano, l'attualità e la rievocazione di quanto accaduto con l'invasione nazista, che vanno in parallelo, alla lunga deboli entrambi, monocorde l'uno, patinato l'altro. La produzione è quella di Filomena, altra storia di ricerca, ma i risultati non sono altrettanto alti nella regia di Simon Curtis. Una storia così avrebbe dovuto appassionarci di più, ma al pubblico in sala non è dispiaciuta. Ha rievocato un periodo storico importante, comunque non è stato pesante, c'è stato comunque secondo me un equilibrio tra presente e passato molto anche intrigante la trama. E la storia, che è bella anche per il fatto che è vera, e poi la recitazione, l'ambientazione commovente, ma è anche ironico, molto molto carino, veramente. Beh, l'interpretazione è stupenda dell'attrice soprattutto. Non immaginavo che ci fosse stato una situazione di questo genere, l'Austria non esce benissimo, devo dire. E allora, Woman in Gold è il primo film di cui vi abbiamo parlato, raccontato dalla nostra Chiara Pizzimenti, con una protagonista come Helen Mirren, che tra l'altro ha scelto l'Italia come sua patria d'elezione. Sapete, forse lo sapete, forse no, io ve lo dico, vive in Salento praticamente, quindi come dire, è un'italiana acquisita. Viabilità, sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco cominciamo a scaldare un pochino un film di quelli molto attesi soprattutto dai giovanissimi, si intitola Maze Runner. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci qua, seconda parte della Rosa Purpurea. Come promesso, prima di passare fra poco a parlare di Suburra, sicuramente il film della settimana, per presenza, per anche per capacità di agitare il dibattito sui media, parliamo di Maze Runner. Maze Runner, la fuga, perché è il secondo capitolo della saga di questo film, che nel suo primo capitolo aveva seminato degli elementi piuttosto interessanti. Ricorderete un grande labirinto con dei muri altissimi di cemento armato che si alzava e si abbassavano e che impedivano ai ragazzi che vivevano nell'illusione della libertà, perché erano dentro questa situazione, potevano mangiare, cacciare, divertirsi, ma non uscire da questo labirinto. E nel primo film tutto si chiudeva con il tentativo di fuga riuscito e con l'illusione di una libertà esterna. E invece questa libertà esterna non c'è. Potremmo dire che nell'inizio di questo secondo film, Maze Runner, la fuga, i protagonisti passano da una prigione all'aperto a una prigione al coperto. Il mondo esterno è appeso a un filo molto sottile. È solo questione di tempo prima che il virus elimini il resto di noi. Questa struttura è stata realizzata per proteggerli. Nascondono qualcosa. Non sono quelli che dicono di essere. È Wicked. Faceva parte del piano. Ho bisogno di sapere da che parte stai. Andiamo! Thomas! Non è come nel labirinto. Non riuscirete a sopravvivere neanche un giorno là fuori. Vogliono qualcosa che abbiamo dentro di noi. Non dobbiamo farci trovare. Sei molto vicino alla verità. È arrivato il momento di chiamare in causa il nostro e anche un po' vostro Boris Sollazzo. Ciao Boris. Buon pomeriggio Franco. Sei un po' di tutti, diciamo così. Ma io sempre. Sempre, da sempre. Boris, allora partiamo da qua, partiamo da una proposta per un pubblico sicuramente, insomma, che sta più vicino ai 15 che ai 40, ecco, per intenderci. Come idea che però, come dicevo prima, raccoglie l'eredità di un film che mi aveva intrigato abbastanza. Cioè, il primo Maze Runner, che nasce nell'onda lunga dei successi di Hunger Games, cioè di questo di questa serie di saghe adolescenziali uno contro tutti, oppure adolescenti contro adulti, mondo ricco contro mondo povero, insomma, questa prima parte del film, questo primo capitolo del film, aveva messo lì degli elementi interessanti. Maturano in questo secondo film, cioè riesce a portare a casa il sequel, che è sempre uno dei momenti più difficili? Sì e no, diciamo che sfrutta l'onda lunga del primo. Il primo capitolo secondo me era un film molto interessante anche sotto gli aspetti contenutistici. È vero, come dici tu, che era diretto a un pubblico adolescenziale, ma non era dedicato solo a quel pubblico là. Se vogliamo, il primo Maze Runner è il gemello diverso di un altro film di cui parleremo oggi, che è The Lobster. Racconta un futuro distopico in cui si cerca di ricostruire, come anche in Equals che abbiamo visto a Venezia, un futuro in cui si cerca di appianare qualsiasi dissenso in maniera artificiosa. Ed era molto buono quel primo capitolo, soprattutto per quanto riguarda il soggetto, l'idea e la sceneggiatura, meno per quanto riguarda gli attori, che però venivano trascinati da un racconto e da un'atmosfera molto particolare. In questo caso si chiede agli attori uno sforzo in più, c'è più dinamismo, c'è la necessità maggiore di un loro coinvolgimento anche per quanto riguarda il talento più forte, e in quel senso le promesse del primo capitolo non vengono del tutto mantenute, perché non hanno le spalle abbastanza larghe per reggere personaggi comunque molto particolari. Il dinamismo aiuta però anche a dover raccontare una storia più fluida, una storia che comunque va avanti da sola. In questo secondo capitolo, secondo me, è evidente la necessità e la volontà di fare un franchise, quindi di raccontare un mondo, di costruire un mondo, di fare come succedeva in Hunger Games, di creare delle icone anche quando non ci sono. Parlavamo di Onda Lunga, e l'Onda Lunga è proprio quella, cioè quel futuro distopico, quell'ambiente, quella paranoia nei confronti di un controllo totale e di fatto di un complotto alle spalle degli unici innocenti, quello rimane probabilmente anche per merito del primo capitolo. Faccio fatica per esempio a vedere che qualcuno possa apprezzare il film senza aver visto il primo, quindi diciamo che è un lavoro sufficiente per chi si è già appassionato alla storia, però sconta tutti i problemi che un sequel ha nella sua costruzione, nella sua ontologia, e quindi alla fine, insomma, ecco, strappa il 6 ma non di più. E comunque il 6 è abbastanza per essere promossi, almeno a scuola, quindi, come dire, porta a casa questo risultato, porta a casa anche 70.000 spettatori quasi nella prima giornata, che era ancora in piena festa del cinema, quindi, come dire, a prezzi ridotti, e potrebbe essere però un abbrivio importante per quello che accadrà in questo weekend. Questo è I Maze Runner, La Fuga, il primo film, anzi il secondo film dopo Woman in Gold di cui abbiamo parlato. Adesso però giochiamo insieme, perché ancora una volta, la settimana scorsa, nessuno ha indovinato il nostro film misterioso. Il fatto è che Tom non era tipo da sacrificarsi per la carriera di Ellen. E così se n'è andato. Era pazzo di lei, solo che è uno che non lo ammetterebbe mai. Sì, la conosco il genere. Allora, avete riconosciuto stavolta di che film si tratta? Stavolta vi devo dare l'aiutino, come sempre si fa nel secondo passaggio, quando i nostri film sono magari un po' più difficili. Vogliamo dire che è diretto dallo stesso regista dei Guerrieri della Notte? Ecco, allora, cominciate a ravanare un pochino nel vostro archivio o sui vostri smartphone. Il nostro indirizzo è sempre larosapurpurea@radio24.it. Scriveteci il titolo di questo film. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia per provare a vincere una delle due copie in un video che sveleremo, speriamo, se siete bravi e capaci, la prossima settimana. È arrivato il momento di parlare, lo ha preannunciato Boris Sollazzo pochi istanti fa, di The Lobster, un altro dei tanti film che escono in questo weekend. Anche qui siamo di fronte a un futuro prossimo dove, secondo le regole vigenti in quel momento, i single vengono arrestati e trasferiti in un hotel dove poi sono obbligati a trovarsi un partner entro un mese e mezzo. Ha mai vissuto da solo prima? No, mai. La sua ultima relazione quanti anni è durata? 12. Ha figli? No. E il cane? È mio fratello. Buongiorno, 44 giorni restanti. Come saprà dall'esperienza di suo fratello, se non riesce a innamorarsi di qualcuno durante la sua permanenza qui, si trasformerà in un animale? Hai catturato dei conigli? È piuttosto difficile. Insomma, grazie. Dobbiamo essere sincronizzati. 5, 4, 3, 2. Ha pensato a che animale vorrebbe diventare se restasse da solo? Sì, un'aragosta. E da qui il titolo, appunto, The Lobster. Dirige Yorgos Lanthimos, cast altisonante: Colin Farrell, Rachel Weisz, Lea Seydoux, John C. Reilly, eccetera eccetera. Boris, le atmosfere del trailer ci parlano di una fantascienza però molto mediata, da toni di commedia quasi grottesca in certi momenti. Assolutamente così. The Lobster è quella commedia grottesca che Lanthimos aveva in qualche modo lasciato presagire già in Dogtooth, che è un piccolo capolavoro con cui si è fatto scoprire nel cinema mondiale, che probabilmente gli è valso anche l'arrivo a Hollywood a questo cast altisonante. C'è da dire, The Lobster è veramente un gioiello, è un film di una potenza straordinaria. come hai raccontato bene tu nella trama, si parla di un futuro improbabile in cui il controllo arriva anche a livello emotivo, si cerca di far accoppiare per renderli più controllabili gli esseri umani, che vengono considerati diversi, sbagliati nel caso in cui appunto siano da soli. E la forza di The Lobster sta tutta nella sua divisione in due atti. Nel primo atto appunto c'è questo hotel in cui bisogna rimanere 45 giorni e bisogna disperatamente cercare una compagna o un compagno, e in questo senso si ritrova quella commedia grottesca in cui c'è la ricerca ossessiva di questo obiettivo anche in maniera improbabile, semplicemente per salvarsi la vita o per non diventare un animale, perché poi c'è appunto questa reincarnazione in un animale che è una sorta di punizione abbastanza improbabile, ma molto efficace, perché ne sono molto impauriti. E a un certo punto diciamo che Colin Farrell sceglie una terza via tra cercarsi una compagna e diventare una aragosta, e in questa terza via c'è la genialità del film, perché in questa terza via lui pensa di fuggire da una prigione, qui torniamo a Maze Runner, pensa di fuggire a quell'ossessione per trovare dei ribelli, dei partigiani, una comunità che vuole essere rivoluzionaria, vuole andare contro questa dittatura, per scoprire che non c'è nient'altro dittatoriale che un ribelle ideologico, appunto lei sei tu. Lo fa piombare in una foresta e in una prigione a cielo aperto, in cui le regole sono forse anche peggiori di ciò che aveva lasciato. Questo doppio piano e questo contrasto rende The Lobster, anche per la bravura di Lanthimos e per la bravura degli attori, in particolare Farrell e Weisz, che raccontano l'amore che è vietato nella seconda comunità in una maniera romantica e dolcissima, rende il film un film superiore, rende il film un film d'autore molto molto bello, che a mio parere a Cannes forse meritava miglior fortuna anche per quanto riguarda i premi. Quindi davvero ve lo consiglio, perché se andate a cercare un film d'autore però che ha la capacità di intrattenere, di divertire e anche di inquietare, The Lobster è l'ideale. E allora viva The Lobster, ancora una volta appunto un futuro, come si dice, distopico. A me piace molto questa parola, a me comincia un po' a stancare, ma comunque il futuro distopico, quel futuro che non vorremmo in questo The Lobster. Adesso linea alla regia, fra poco Boris siamo qui con Alessandro Borghi, attore protagonista di Suburra, parliamo di Suburra, sentiamo l'intervista con Alessandro Borghi che ci parla molto anche della sua preparazione pian pianino agli Oscar, perché Alessandro Borghi è anche nel cast del film di Caligari che rappresenterà l'Italia agli Oscar, ovvero Non essere cattivo. Tutto questo fra poco alla Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. Perché lei sei venuta a cercare? Per darti la mano. La Befana ti porterà sul conto delle fondazioni un paio di milioni di euro. In cambio mi serve la legge sulle periferie. Tu devi fare solo la tua parte, il resto ci penso io. Tra qualche giorno il tuo partito, il governo, salta tutto per aria. Cederò i miei referenti di partito. I tuoi referenti non esistono più. Possiamo comprare chiunque. Ma vieni di qui, almeno primi, che mi parteggiavi, tu non hai fatto un cazzo! Ti sto chiedendo quello che mi spetta adesso! Però il mio colore è mio! Sei stato tu? È stata Roma. Suburra, questo è il trailer, il clima è quello del grande cinema nero, come il crimine del nostro paese. Allora, partiamo dal dizionario. Suburra, nome proprio di una zona di Roma antica, compresa tra i colli del Quirinale, del Viminale e dell'Oppio, che alla fine della Repubblica era diventata quartiere popolare di commercianti, gente di malaffare, sede di postriboli. Ecco, da quello, poi dopo, Suburra è diventato quello che tutti pensiamo quando sentiamo questa parola, cioè un luogo di malaffare, un luogo da evitare, un groviglio di criminalità e modi di vivere non consoni. Allora, questo termine associato alla Roma di oggi nel film racconta di una malavita Maidoma che sta per mettere le mani su un grande affare, un grandissimo affare. qualcosa mette fuori strada il binario che doveva portare la criminalità appunto a far soldi in questo modo, e quel qualcosa riapre ferite, guerre, intestine, anche fa uscire dal nulla personaggi come il samurai, vecchio nazista, rispolverato criminale, per riportare le cose su quel binario e non deragliare più. Fra poco sentiremo Alessandro Borghi, che è uno degli attori di Suburra, è uno degli attori anche del film di Claudio Caligari, Non essere cattivo, che ci rappresenterà agli Oscar, e sentirete l'intervista. Però adesso parliamo un attimo del film con Boris Sollazzo, che tra l'altro è uno dei più grandi conoscitori di Suburra, di Suburra il film ovviamente. Boris, diciamo che gioca a favore di questo film che ha cominciato il suo percorso in sala in maniera fortissima, tanto il regista Sollima, che aveva firmato film per esempio come Acab, che sa raccontare questi spaccati di vita, della diciamo vita laterale della Roma contemporanea, gioca molto un titolo appunto forte come Fugomorra per esempio, no? fa rima addirittura, un titolo forte, aggressivo, gioco a questo film una regia straordinaria, di un nero che è il nero dell'anima prima ancora che essere il nero della fotografia. Fa gioco un cast che in Italia, insomma, come dire, mette insieme il meglio di questo tipo di cinema, da Favino a Germano, da Amendola a Borghi, insomma c'è anche Jean-Hugues Anglade, per andare a dare un occhio fuori dai nostri confini. Siamo di fronte a un film che caratterizzerà probabilmente la nostra stagione cinematografica, e se sì, perché? Sono pienamente d'accordo con te, la caratterizzerà, e credo non solo la stagione cinematografica ma proprio il cinema italiano, perché è la definitiva consacrazione di un cinema di genere che fino ad ora fa solo Sollima, purtroppo, non perché non sia bravo, anzi è bravissimo, ma perché dovrebbe esserci un movimento dietro di lui molto più ampio e molto più vitale. Lui se ne è impossessato, ci si diverte, e però a differenza magari di Romanzo Criminale e Gomorra, le serie e Acab, che sono dei grandi film, questo è proprio un capolavoro senza se e senza ma, perché qui Stefano Sollima fa un salto di qualità, decide di mettere insieme Il Rosi delle Vene della Città e Lo Scorsese di Mistris, decide di raccontare Roma come una metropoli universale. E è un film che ha delle incredibili professionalità al suo interno, c'è una sorpresa Claudio Amendola straordinaria. Dopo anni di Cesaroni riscopriamo l'attore della gioventù, un attore misurato e potentissimo nella parte del samurai, che è questa sorta di burattinaio nero, e quando dico nero lo dico nel senso più ampio del termine, che tiene in mano Roma, che vorrebbe essere appunto quel Carminati che l'attualità ha consegnato alle cronache giudiziarie, perché questo è un film che non rifiuta la realtà. Se vogliamo definirlo in un genere, potremmo parlare di realismo di genere, appunto. E cioè, è ambientato nella settimana precedente alla caduta del governo Berlusconi, in un periodo in cui si sta dimettendo anche il Papa, e infatti non a caso il countdown che scandisce il film è un countdown di 7 giorni, e viene definito 7 giorni all'apocalisse. Apocalisse che poi in realtà non si realizza, perché Roma sa risorgere dalle proprie ceneri, anzi forse non fa altro da 3.000 anni che risorgere costantemente dalle proprie ceneri, sempre più buia, sempre più scura, appunto come una Suburra, e viene raccontata in maniera meravigliosa. È davvero un affresco incredibile, pazzesco, che dura 2 ore e 10, ma non ve ne accorgerete mai, in cui tutti fanno il loro lavoro al meglio. Pierfrancesco Favino nella parte di Filippo Malgradi, che nel libro, perché ricordiamo tutto nasce dal libro di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, che hanno anche cosceneggiato il film con Rulli e Petraglia, e questo non è male, insomma, perché gli autori di Romanzo Criminale, ma anche della Meglio Gioventù, qui raccontano la peggio gioventù. Nel libro si chiama Perica Magardi, ma è bravissimo Alio Germano nella parte di una sorta di topo di fogna di un sistema in cui i deboli vengono schiacciati e diventano strumenti. Sono bravissime le due attrici che forse tengono in loro l'unica risacca di innocenza, Greta Scarano e Giulia Elettra Gorietti, Bravissimo Alessandro Borghi, che non togliamolo più da Ostia, perché quando recita ad Ostia diventa una sorta di Al Pacino, tira fuori un talento straordinario, ma bisogna dare un ruolo di primo piano, bisogna mettere su un piedistallo Stefano Sollima, che dimostra di essere un regista con la R maiuscola, un maestro, perché da Suburra in poi un certo tipo di cinema in Italia non si potrà più fare senza ripartire da Stefano Sollima. Quindi, per quanto potrà far sorgere il naso a qualcuno questa definizione, noi siamo di fronte a un maestro e come tale dobbiamo raccontarlo e come tale portare avanti la nostra analisi cinematografica. Quindi davvero Suburra è un film per il pubblico, perché il pubblico rimarrà attaccato alla poltrona costantemente, ma anche un film che meriterebbe premi in quantità, che temo per gli schematismi del nostro cinema che li avrà, ma comunque sarà sicuramente il pubblico a darglieli, come ha già iniziato a fare. Vuoi far capo? Beh, mi pare che ancora non ti sei imparato a farlo. Sì, ma a me mi piace il suo modo di parlarmi, Samurà. E io ti rispetto. Ed è perché mi rispetti che hai ammazzato uno che dovevi soltanto spaventare. No, allora non ha capito, quello voleva entrare dentro a fare, ma l'ha detto a me. Non ti stronzate, Aurelia. Gli anacleti non sanno un cazzo di sta storia. Vabbè, ma che ho fatto così creato? Eh? Ho levato dalla strada un'altra faccia di merda, ma che? Tu non devi discutere. Tu devi fare quello che ti dico io. Te devi comportare come si comportava tuo padre. Mio padre, negli ultimi tempi, leccava il culo alle famiglie della Bassa Italia. A me sta cosa è messa bene. Le famiglie della Bassa Italia, come chiami te, dentro a sta storia ci hanno messo i milioni. Vabbè, ma il suo grande affare se fa, però mi pare che stiamo sempre qua a parlare, no? Se fa, se non famo più cazzate, se fa. Ce la fai a star buono per qualche settimana? Ci riesco. Me l'auguro per te. E qui Amendola Borghi nel clip che vi abbiamo montato. Andiamolo a sentire Alessandro Borghi allora, uno dei protagonisti, una delle sorprese di questo Suburra e anche uno degli uomini che porteranno l'Italia verso la prossima notte degli Oscar. Partiamo dall'attualità, da un film come Suburra che esce in sala e che ha un'aspettativa palpabile che, come dire, era un po' che non si vedeva. Forse che ha rimesso insieme un clan ormai vincente. Ma sì, credo che sia, perché sicuramente, vabbè, a parte che ovviamente Stefano Sollima si porta dietro il riverbero di Gomorra, la serie che insomma tutti sappiamo che ha fatto un ascolto incredibile. Poi sì, ha preso un cast importante, ma in realtà credo che questa attesa ci sia in particolar modo dopo che insomma ci siamo trovati, è stato usato questo aggettivo profetico, no? Ci siamo trovati mentre stavamo girando a vedere che realmente poi è accaduto quello che era stato raccontato secondo loro a livello fantastico nel film. Quindi sì, c'è molta attesa, io la sento molto, soprattutto perché insomma si sa che poi il film uscirà, mi sembra, forse in 500 sale, una cosa del genere, una distribuzione importante, e uscirà nei giorni del Cinema Days, costerà 3 euro, quindi immagino che soprattutto, cioè io almeno sono di Roma, e ci sarà una situazione abbastanza particolare. E c'è, noi la sentiamo parecchio, venerdì ci sarà la conferenza stampa e avremo un bel po' di cui parlare, credo. Ascolta, forse mi sono fatto anche l'idea che può essere che questo è diventato un po' il filone trascinante di un cinema italiano, diciamo, che se esuliamo il cinema degli autori italiani, no? È diventato il genere che oggi in Italia si riesce a spingere, forse l'unico, perché se pensi a Gomorra, se pensi alla serie, se pensi a Romanzo Criminale, se pensi in un certo senso anche al film di Munzi, no? Cioè c'è questa vena noir che pervade il racconto cinematografico. Beh, mi sento di dire molto sinceramente che magari fosse così, nel senso che Anime Nere è stata una dimostrazione del fatto che un film possa prendere molti premi anche facendo una storia di genere, perché è un film molto di genere. Io sono stato da sempre, da molto tempo, un sostenitore del fatto che in Italia si faceva un grandissimo film di genere, che probabilmente è stata una delle cose che più ha portato il cinema italiano a un certo livello, e secondo me è sacrosanto il fatto che questo cinema ritorni. Ovviamente ritorna sotto un punto di vista molto più moderno, perché Stefano ha adattato il suo stile, la sua fotografia a un progetto molto più americano dal punto di vista visivo, ma va bene così, perché ci avviciniamo da una parte però riprendendo quella che è in realtà l'identità del cinema italiano. La commedia va bene, vogliamo ridere, ridiamo, però dall'altra parte bisogna anche regalare qualcos'altro al pubblico, insomma. E tra l'altro leggo tra le righe quello che dicevi, anche con un respiro internazionale di un certo tipo, cioè questo è un cinema anche spendibile all'estero. Beh, sicuramente, ma già Suburra è frutto di una collaborazione anche francese, e Gomorra, insomma, è stato venduto in non so quanti paesi, questo mi sembra sia un segnale abbastanza importante. Poi, maggior ragione, in questi giorni abbiamo avuto questa notizia che Netflix, insomma, comincerà a collaborare con dei progetti italiani. Questo mi sembra veramente un aprire le porte per essere, insomma, per avere la possibilità di allargarsi in tutto il mondo. Finalmente, finalmente. Senti, un passo indietro per poi farne un altro avanti, cioè arrivi da una, da una Venezia che ti ha dato tante soddisfazioni, che ha premiato con un'attenzione e con un affetto davvero straordinari Claudio Caligari, a cui va sempre il nostro ricordo, perché ci ha messo tanto tempo per fare questo film e non è riuscito, peccato, a godersi quel momento appunto di pacche sulle spalle ideali che sono arrivate a Venezia. Però qui si rischia di esagerare, cioè tu ti stai preparando un viaggetto americano per il prossimo febbraio? Sì, in realtà anche prima del prossimo febbraio, perché il 10 di novembre sono a Los Angeles per la prima scrematura. Ma non so, a me ancora adesso parlarne fa un certo effetto, sinceramente. Il giorno che ci hanno comunicato che Non essere cattivo avrebbe rappresentato l'Italia agli Oscar, non abbiamo parlato per 2 giorni. Ma perché? Perché è un film piccolo, è un film che è nato in punta di piedi, in punta di piedi continua a fare questo percorso, emotivamente ci regala delle cose che non smettono mai veramente di sorprenderci. Venezia è stata un'emozione che non riesco ancora adesso a descrivere. Mi ricordo che il momento in cui si sono accese le luci dopo la proiezione, esplosa una cosa in mezzo al petto e cercavo lo sguardo di Luca Marinelli, di Valerio, come a avere la consapevolezza che avevamo fatto veramente qualcosa di bello e di grande. Purtroppo Claudio questa rivincita non l'ha avuta e purtroppo non gliela possiamo raccontare, speriamo che in qualche modo gli arrivi, non so come. Sarebbe stato bello. Io quando mi chiedono che cosa ti porti dietro dal film, la mia risposta è sempre il coraggio di Claudio Caligari, che è stato tanti anni lontano dall'unico amore della sua vita, che era quello di fare il cinema, insomma. Tra l'altro anche questo un film che ha delle vene noir pesantissime, anche se poi qui c'è anche tanto Pasolini dentro, a mio modo di vedere, e quindi sposa due anime critiche del cinema italiano. Beh sì, c'è tanto tanto Pasolini, però ovviamente c'è tanto noir, perché è una storia, cioè è una storia, se possiamo definirla così, è una storia che alla fine sì, finisce nel noir, però con un'impostazione che è prettamente pasoliniana, che però è una cosa che ci tengo a precisare sempre, che questo è aspetto pasoliniano del film non è stata una cosa che Claudio ricercava, perché era Caligari questo, cioè è quasi come se Caligari, non sapendolo, avesse la stessa impostazione di Pasolini. Quindi era questo neorealismo, questo bisogno di essere quello che andavi a fare e non di fare finta di esserlo, di respirare quelle dinamiche, e è il motivo per il quale poi io e Luca Marinelli siamo diventati amici come se ci conoscessimo da 30 anni, anche conoscendoci da 30 giorni, insomma. Ti hai già preparato gli abiti per l'eventuale sera di febbraio? No. Dai, pensa, cioè, ti pensi con... Ecco, continuo a pensare allo speech che provo tutti i giorni davanti allo specchio. No, diciamo, gli abiti saranno l'ultimo dei problemi, per fortuna il mio ufficio stampa è bravissimo in questo. Però non lo so, andremo a Los Angeles adesso a novembre, già ho tanta tanta paura, quindi se poi mi ritroverò ad andarci a febbraio sarà perché la prima scrematura è andata bene e avremo ancora più paura. Andiamo con una battuta al nome Oscar. Fino adesso pensavi più al telegatto o a quello vero? No, mi veniva in mente Oscar ed è troppo forte di Verdone. Quello era l'unico che potevamo immaginare, insomma, quindi... Prego. Alessandro Borghi alla Rosa Purpurea a parlarci di Suburra nelle sale cinematografiche italiane, a parlarci anche di Non essere cattivo in viaggio verso gli Oscar. Viabilità, fra poco l'ultimo film Robert De Niro nelle sale italiane con Lo stagista inaspettato e poi tutto il cinema da vedere a casa. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento La Rosa Purpurea. Eccoci qui, Rosa Purpurea, il rush finale parte dall'ultima delle pellicole che vogliamo segnalarvi per la sua presenza in sala, poi che da questo ne nasca un film indimenticabile. Ci passa parecchio spazio, Lo stagista inaspettato, Robert De Niro, Anne Hathaway in un film di Nancy Meyers che è un po' un marchio di fabbrica per un certo tipo di commedia, diciamo così, positiva. La storia di un pensionato settantenne che riparte nella sua vita, riparte dalla gavetta mettendosi a fare lo stagista. La pensione è uno sforzo continuo e implacabile di creatività. Ho provato yoga, corsi di cucina, cura delle piante. Le ho provate tutte. Ho un appuntamento con Miss Austin. Credevo vedesse il nuovo stagista. Sono io. Quanti anni hai? 70. Salve Jules, sono Ben, il nuovo stagista. Meno male che anche tu lo trovi ridicolo. Il mio stagista si dà da fare. Mister Simpatia? Lo adorano tutti. Gli investitori ritengono che una di navigato ti toglierà le castagne dal fuoco. Cerca di fare la cosa giusta per tutti. Sono Fiona, massaggiatrice aziendale. Meno male che c'è ancora qualcuno della vecchia guardia. Che ne dici, Ben? Beh, direi che... Oh, mamma. Ecco, vieni. Non sei vecchio come pensavamo tutti. Boris, un minuto per raccontarci lo stagista inaspettato. Io direi il Robert De Niro purtroppo aspettato. Ma fino a un certo punto, perché devo dire che Nancy Meyers è la dimostrazione, l'aveva già fatto vedere nella Moneva in vacanza, di come scrivere un buon film sia fare già metà del film. E quindi incornicia Robert De Niro in un personaggio che non lo fa gigioneggiare troppo, è un personaggio dimesso di questo pensionato che vuole appunto diventare stagista per tornare al lavoro, per sentirsi di nuovo vivo, e che trova una buona alchimia con Anne Hathaway. La storia è dolce, è la storia del vecchio che incontra il nuovo, dell'anziano che scopre internet e che scopre questa donna a cui non ha abituato, questa figura femminile che in qualche modo ha saputo farsi valere attraverso una startup. La sceneggiatura zoppica un po' al centro perché si ripete un po' troppo, ma alla fine la coppia funziona, c'è una buona alchimia e ci fa tornare a una nostalgia del vintage, di questi anziani pieni di stile ed eleganza, con il fazzoletto sempre nel taschino, pronto all'uso, che ci accarezza il cuore. È una commedia piccola che mantiene quello che promette, e questo può anche bastare. E come dice il collega Alessio Barbati, dubito che nessun uomo uscirà più senza un fazzoletto nel taschino dopo aver visto quanto è efficace con le donne nello stagista inaspettato. E allora tutti col fazzoletto nel taschino, grazie Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana, buon cinema. Allora, questi tanti film nelle sale cinematografiche italiane, noi però dobbiamo giocare ancora insieme per la seconda traccia del film molto misterioso, evidentemente, visto che era lo stesso della settimana scorsa, anche per oggi. Scusa, quando parte questo treno? Devo ritornare subito a Richmond. Questo treno non parte. Senti ragazza, io ho fretta, perché non mi aiuti? È molto importante. Beh, comunque non ci puoi salire su questo treno. I bomber hanno perso la testa, non lo sai? Allora, vi abbiamo detto che è il film che è venuto dopo il grande successo dei Guerrieri della Notte dallo stesso regista. Adesso avete sentito anche la parola bomber, insomma, più di così. La Rosa Purpurea, chiocciola, radio24.it, titolo del film e vostro indirizzo. Provate a vincere una delle due copie in un video di questo film che sveleremo la prossima settimana. E invece adesso non sveliamo nulla, perché il film la settimana scorsa non l'hanno indovinato, quindi andiamo avanti con quello che riguarda i film da vedere a casa. E per far questo, come sempre, in collegamento telefonico con noi Giulio San Giorgio dalla redazione di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Insomma, abbiamo cominciato un percorso di film misteriosi, molto misteriosi, ed evidentemente qui il pubblico è molto engagé, come dicono quelli che se ne intendono. Adesso vediamo se lo capiranno. Invece non c'è niente di misterioso nelle segnalazioni TV per la prossima settimana. Abbiamo messo lì una doppietta di grande qualità, cominciando da domenica 18 ottobre alle 23.05 su Rai 5, quando c'è un film che ha un po' segnato le scorse stagioni cinematografiche, come Una separazione di Asghar Farhadi. Sì, Una separazione domenica su Rai 5 alle 23.05. Asghar Farhadi è veramente un autore chiave del cinema iraniano contemporaneo, perché è uno che è in grado di raccontare drammi privati, piccoli, in cui per allegoria, metonimia, si rispecchiano le mille sfaccettature e le tensioni di un paese. Una separazione è il titolo di questo bellissimo film, ma di separazioni ne racconta molte: quella tra due coniugi, tra figli e genitori, tra una donna e il suo paese e tra un vecchio e la sua ragione. E lo fa con quello che è veramente un capolavoro finissimo di scrittura, un congegno perfetto, proprio una sceneggiatura che funziona come più di un thriller e che scandaglia l'animo di uomini, donne e di un'intera nazione. E allora ricordiamolo, l'appuntamento è un film davvero da vedere, domenica 18 ottobre alle 23.05 su Rai 5, Una separazione di Asghar Farhadi. Il giorno dopo, lunedì 19, sempre in seconda serata alle 23.45 su Iris, c'è un film che invece mi era veramente piaciuto tantissimo sin da quando lo vidi la prima volta, di Alfonso Cuarón, I figli degli uomini. Sì, siamo nel 2027 in una Londra desolata e letteralmente sterile, proprio perché nessuno può più procreare, il mondo appassisce e non finisce con uno schianto ma con un lento pianisteo tra gente che corre in tutta fretta e militari che cacciano gli immigrati e dissidenti. Emerge però un germoglio di speranza, una donna incinta. È un esempio di fantascienza apocalittica molto riuscito, diretto da Alfonso Cuarón, con un taglio realistico insieme livido e caotico e con pregevoli pezzi di bravura stilistica come un celebre piano sequenza di 6 minuti, insomma sicuramente un film da vedere. E allora I figli degli uomini, a proposito di futuro distopico come dicevamo poco fa in trasmissione, lunedì 19 ottobre alle 23.45 su Iris. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra puntata, le note della sigla ce lo dicono, io non posso far altro che salutarvi, ovviamente come dire, invitarvi ad andare al cinema anche questa settimana e a ritrovarci qui sabato prossimo alle 18 per La Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è.